Blu Radio Veneto. So Info, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci al secondo appuntamento di questa settimana con So Info, il punto radio settimanale dedicato ai temi della salute e della società, osservati attraverso uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Proseguiamo con l'argomento introdotto ieri, l'alimentazione dei più piccoli, focalizzandoci su un interessante progetto dell'azienda ULS 2 marca trevigiana, Merenda Sana. Ce ne parla la dottoressa Giuseppina Girlando del Dipartimento di Prevenzione. Buongiorno, oggi parliamo di merenda. La merenda svolge un ruolo strategico nell'equilibrio alimentare della giornata. Infatti, tra i principali fattori che comportano obesità, sovrappeso, cattiva alimentazione, ci sono proprio le merendine ipercaloriche, le bevande gassate e zuccherate, gli snack salati che noi consumiamo fin da bambini senza pensare al danno che questi ci portano. Oltre a non portarci nessun nutriente, contribuiscono ad alterare il nostro gusto, che quindi andrà a scegliere sempre di più gli stessi alimenti dannosi per la nostra salute e a non consumare quelli che invece ci fanno bene. Quindi grossa attenzione a quello che i bambini mangiano a merenda. Proprio per contrastare il consumo di questi alimenti dannosi per la nostra salute, abbiamo immaginato di proporre una iniziativa 2 anni fa di questi tempi, Merenda Sana, per rendere disponibili anche nei panifici e negli ortofrutta una merenda alternativa, ripeto, alle merendine e agli snack ipercalorici. Sono un centinaio i pubblici esercizi che hanno aderito a questa iniziativa, che consiste nell'offrire un panino grande quanto il pugno di un bambino di 30-40 grammi, arricchito con frutta o verdura di stagione, oppure un frutto di stagione a soli 30 centesimi, oppure facendo un abbonamento di 18 merende per 5 euro. Questo richiede ovviamente un'organizzazione da parte dei genitori e da parte della scuola e una volontà di scegliere una merenda salutare per i propri bambini. Perché è così importante la merenda? La merenda non è importante solo di per sé, perché una merenda sana appunto contrasta il consumo di una merenda sbagliata, ma anche perché saltare la merenda o fare una merenda eccessiva, quale può essere anche un panino imbottito, si ripercuote negativamente sul consumo del pasto successivo. Quindi lo spuntino deve essere, appunto, come dice la parola, ino, piccolo, deve fornire quel giusto, quel po' di energia per continuare l'attività della giornata, anche quindi per il bambino, per essere attento a scuola, però senza appesantirsi. Quindi la merenda ideale è proprio un frutto, che è un cibo dolce per natura e che ci può accompagnare dappertutto, anche noi adulti, oppure in alternativa questo panino con uvetta, frutta, noci, piccolino, e il piccolino non deve spaventare, perché serve proprio come spezzafame per fare arrivare al pasto successivo, quello soprattutto a scuola, che è molto salutare per il bambino, senza avere un eccessivo appetito che poi porta magari a chiedere i bis, e questo non va bene, e senza neanche essere troppo sazio, che quindi comporta lasciar là nel piatto quello che invece è un cibo salutare. Quindi potete trovare questa merenda sana nei panifici e negli ortofrutta che espongono la vetrofania. Il gruppo degli Alcuni ha offerto tutta la grafica e quindi molto accattivante per i bambini, perché appunto si tratta della merenda sana con i cuccioli. So Info, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana.